sponda che guardi l'Oriente, a miglia dal settentrione, qui si consuma la cera, non parte la processione, porto di contrabbandieri, covo di santi e mercanti, storica periferia, faro per i naviganti. Dal rogo hai visto salire il fumo della tua storia, hai trafugato la fede e non hai più la memoria. Stella caduta dal cielo nel fondo dello stivale, terra che brucia nel sole, sole che nasce dal mare. Strade che ho visto cambiare, dove ho imparato la vita, gente che attende l'aurora dopo una notte infinita, vigori all'ombra del tempo, anime da maledire, non ti riesco ad amare, ma non ti posso tradire. Stella caduta dal cielo nel fondo dello stivale, terra che brucia nel sole, sole che nasce dal mare. Sponda che guardi l'Oriente, a miglia dal settentrione, bella sorpresa trovarti nel verso di una canzone, piazza di tante parole, quando c'è tanto da fare, le strade dritte che vanno, tutte che arrivano al mare. Stella caduta dal cielo nel fondo dello stivale, terra tradita dal sole, sole che fugge dal mare. Stella caduta dal cielo nel fondo dello stivale, terra baciata dal sole, sole che torna dal mare.